Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, le notizie di giornata innanzitutto. Allora, si giocherà alle 20.45 Juventus-Cagliari il posticipo di domenica, e cioè la Lega ha deciso di spostare la partita per far sì che ci sia giustamente, sacrosantamente contemporaneità tra il derby di Milano, cioè tra la partita in cui è impegnato il Milan, e quella in cui a Trieste, allo stadio Nereo Rocco, sarà impegnata la Juventus. Contemporaneità per lo scudetto, scandalosa differenza oraria di giornata addirittura per la salvezza, mi spiego meglio. La partita Lecce-Fiorentina si giocherà regolarmente, come era stato detto, come era stato stabilito da tempo, alle 18 di sabato pomeriggio, mentre Udinese-Genoa si giocherà invece alle 15 di domenica pomeriggio. Che cosa si ricava da questo? Che esistono due campionati per la nostra Lega Calcio, che in teoria sarebbe la Confindustria del pallone e dovrebbe occuparsi innanzitutto di far rispettare i diritti sia delle grandi squadre che delle piccole. I diritti delle grandi squadre vengono giustamente, lo ripeto, lo sottolineo, tutelati, quelli delle piccole squadre, in questo caso del Lecce, vengono vergognosamente calpestati. Non sono solito usare espressioni di questo genere, ma mi sembra l'unico commento possibile, anche perché oggi, insomma, con gli aggettivi credo che si possa anche un tantinello abbondare, visto quello che è accaduto ieri sera a Firenze. E quindi, a proposito di notizie di giornata, vediamo gli sviluppi. Qualcosa avete sentito dal giornale radio: l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi è stato squalificato per 3 mesi dal giudice sportivo in base alla prova televisiva dopo aver esaminato le immagini dell'aggressione agli AIC. Le immagini televisive, scrive il giudice nella motivazione, puntualmente e dettagliatamente confermate da quanto relazionato dai collaboratori della Procura Federale, evidenziano una condotta inconsulta, tanto violenta quanto imprevedibile, la cui gravità non può essere attenuata dalla tensione emotiva generata da una delicata fase agonistica. La Fiorentina, oltre a ufficializzare l'esonero degli Rossi, ha annunciato di aver avviato un provvedimento disciplinare nei confronti di Ljajic. L'attaccante già da oggi non parteciperà all'allenamento con i compagni. L'ipotesi più probabile che si fa è che il giocatore venga messo fuori rosa. Sempre il giudice sportivo, ricostruendo l'accaduto, dice che assolve l'arbitro Giannoccaro, che non è intervenuto sulla disgustosa scenata di panchina, e avrebbe dovuto invece farlo espellendo l'allenatore della Fiorentina, sostenendo che l'arbitro non ha visto nulla. E allora, a questo punto, visto che la Fiorentina ha fatto lodevolmente la sua parte, visto che il giudice sportivo ha fatto la sua, attendiamo che il presidente arbitrale Nicchi faccia a sua volta la parte che gli spetta. E qual è? C'era un quarto uomo, era partito da Bassano del Grappa il signor Tommasi ieri sera per andare a fare il quarto uomo al comunale. Se non si è accorto della rissa che accadeva alle sue spalle, non l'ha segnalata all'arbitro, tanto vale che da ora in poi la federazione risparmi i soldi di queste trasferte, visto che siamo in momenti di ristrettezze. Poi la Fiorentina è stata multata per i cori rivolti dai suoi tifosi all'indirizzo di Ljajic, pesanti cori di insulti, zingaro, eccetera, eccetera, multa di 15.000 euro, comprensiva anche degli insulti rivolti alle forze dell'ordine, episodio accaduto al 34esimo, insomma, in occasione del cambio e di tutto il resto. Poi, se vogliamo tornare un pochino indietro, è salito a 46 a Genova il numero dei DASPO che sono stati applicati. Guerini è il nuovo allenatore della Fiorentina, subentra per queste ultime 2 giornate a Delio Rossi, e adesso, una volta elencati i fatti, possiamo tranquillamente arrivare ai commenti e alle valutazioni. Sono sommerso da tutte quelle che sono arrivate per iscritto sino a questo momento, ma certo la prima considerazione che mi viene in mente, non più a caldo evidentemente ma a freddo, e quindi tirando qualche somma, facendo qualche 2 più 2, è che questa è la fine che fanno in Italia le pause di riflessione, così era stata chiamata, no? Mi pare quella per il lutto seguito alla morte di Morosini, quella giornata sospesa, quella in cui tutti ci si doveva sentire più buoni perché si era ripassata la precarietà, la caducità della vita prima ancora che dello sport. Se avete una vaga idea di quello che è successo nelle giornate successive, a cominciare dai fatti di Genova, per continuare con il salto dei nervi laziali, collettivo, giocatori e dirigenti, la scorsa domenica a Udine e per arrivare alla follia di Delio Rossi di ieri sera. A che cosa è imputabile tutto ciò? Io non lo so, credo che per capire davvero tutto, quando si parla, non certo gli ultra, perché lì è tutto un altro discorso, ma quando si parla di professionisti, io credo che servirebbe, come disse una volta il grande Jorge Valdano, forse servirebbe la scatola nera per capire che cosa passa ad un certo punto, in un certo istante, nel cranio di un professionista, e quindi come è possibile risalire all'origine di certi gesti e di certi comportamenti. Direi che la scatola nera nel caso di ieri vale anche per Buffon, perché è assolutamente incomprensibile che un campione della sua levatura, dopo aver già rischiato lo stessissimo rischio nel primo tempo, essersela cavata, debba rifare una cosa del genere a 5 minuti dalla fine e non abbia poi nemmeno il riflesso di rimediare, nel senso che quando capisce che il pallone se l'è toccato lungo ha ancora l'attimo per buttarsi e prenderla con le mani e causare contro la squadra una punizione a 2 in area, che sarà sempre meglio che lasciare il pallone a un avversario a porta vuota, a costo di travolgerlo e di fare magari un rigore che, contro cui si può sempre ancora tentare una parata. Insomma, diciamo che le scatole nere ieri sarebbero servite discretamente in abbondanza. Vi dicevo i vostri commenti, che verranno come sempre in onda in diretta, ma anche quelli per iscritto che sono arrivati nel frattempo. Lo scudetto del Real, che si è aggiudicato ieri sera la squadra di Mourinho, giocando bene e vincendo largamente su un campo difficile come quello dell'Atletico di Bilbao, 3-0, scudetto solennizzato da Cristiano Ronaldo con un elegante gesto dell'ombrello a chi popolava lo stadio San Mamés e si era permesso di fischiarlo. Nel frattempo Messi, con i 3 gol di ieri sera, ha battuto lo storico record di Gerd Müller ed è arrivato in stagione, e cioè campionato più coppe, a 68 gol. Questo primato era detenuto appunto dal grande centravanti del Bayern Monaco degli anni 70, che ne aveva segnati 67 nella stagione 72-73. 40 anni dopo è arrivato Messi a battere questo primato. Qualche numero anche, magari ve lo darò più avanti, sentirei la voce di un protagonista di ieri, un paio. Comincerei da Giovinco, perché ancora una volta ha confermato di essere non solo l'uomo giusto per il Parma, ma a questo punto, con la penuria di attaccanti e di giocatori di talento e in buona condizione, credo che sia la sua una candidatura autorevole per i prossimi europei. Sì, sono contento, no, di come è andata la partita, perché comunque era difficile. Nel primo tempo ci è mancato un po' di cattiveria in avanti, nel secondo tempo l'abbiamo trovata e siamo molto contenti di questa vittoria. Devo far bene contro tutti, al di là che gioco contro l'Inter, con qualsiasi altra squadra. Negli altri paesi, scrive Stefano da Udine, non si gioca in contemporanea. Non è sempre che solo in Italia, paese del sospetto, ci si scandalizzi. No, ci si scandalizza, Stefano, perché se il principio vale della contemporaneità, vale o non vale, deve valere per tutti. Non può valere solo per la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, cioè per le grandi squadre. Deve valere anche per i poveri, deve valere anche per il Lecce, deve valere per il Genoa, in questo caso, deve valere per tutti. Poi che sia un vantaggio giocare prima o giocare dopo, non è questo il problema. In questo momento durissimamente penalizzato il Lecce, non solo perché deve giocare 24 ore prima degli avversari e quindi ha un giorno in meno di riposo con tutti questi turni infrasettimanali, ma anche perché dà indubbiamente un riferimento per l'indomani a una squadra che già ha 3 punti di vantaggio. Qui non si tratta di essere pro l'uno o pro l'altro, si tratta di guardare le cose e di dire: se una legge vale per le squadre che pesano tanto, non può non valere anche per quelle che pesano meno. Beh, se no, allora facciamo il campionato per le prime 4 o 5, serie A1, e poi si fa la A2 per i pari. Torniamo e ascoltiamo Bertolacci, l'uomo che ha segnato 21 anni, ha riaperto il campionato, ha segnato 6 soli gol in Serie A, ma 2 alla Juventus, tra cui il primo in assoluto in Serie A nella scorsa stagione, e quello di ieri, che ha fermato 8 la striscia di vittorie per la Juventus e ha rimesso in discussione, almeno teoricamente, la volata scudetto. Bertolacci. Beh, io penso che oggi abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra difficile da affrontare. Sicuramente nella Juve c'è il pensiero dello scudetto, perché è normale, è giusto che sia così. Però penso che per noi oggi è stato importantissimo questo pareggio. Ci ho creduto fino alla fine, perché ho visto Muriel che lo pressava dal lato sinistro suo. Io dal destro ho sperato, così, insomma, anche i migliori sbagliano, quindi è stato così, però penso anche io nel crederci sia stato molto importante. Crede che la carriera di Delio Rossi possa dirsi conclusa? Domanda Daniele da Sassuolo. No, mi auguro di no, mi auguro che Rossi faccia ammenda pubblicamente, cosa che al momento non è accaduta, forse deve giustamente ancora smaltire lo stress e soprattutto credo il senso di vergogna che lo ha raccolto, perché poi anche senza rivedersi io credo che prima ancora non abbia potuto far altro che vergognarsi del suo comportamento, assolutamente inammissibile. Io devo dire che c'è anche qualcuno che lo difende, sia oralmente che per iscritto, e temo che anche questo sia un altro segnale, sinceramente, di degrado. Perché? Ma perché gli AIC si è comportato in un modo bruttissimo, che però fa parte non delle regole, per carità, ma fa parte della prassi, perché cose di questo, gesti più o meno inconsulti, più o meno sgradevoli a una sostituzione ce n'è tutta una serie a ogni turno di campionato, soprattutto da noi che abbiamo il campionato più maleducato del mondo. Però un allenatore che aggredisce un giocatore a quella maniera, peraltro in quella maniera persino violenta e patetica insieme, non, veramente non si era mai visto. Mauro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, io volevo dire velocemente due cose. Sono d'accordo che si sia comportato malissimo l'allenatore, probabilmente, però se non avesse avuto, come dire, se non fosse stato in qualche modo provocato, forse non ci sarebbe stata la reazione. Beh, lo credo, cioè se questo non diceva nulla, non faceva quel gesto, cosa gli dava, una sberla? Cioè già l'aveva levato al 32esimo, lo leva io non difendo gli AIC, cioè gli AIC si è comportato in una maniera per cui se la Fiorentina lo mette fuori rosa è il minimo che deve fare, perché la severità di la parità di severità di trattamento in un caso del genere deve essere assoluta, ma voglio dire che gli AIC potesse non essere perfettamente di buon animo, provi a mettersi un attimo nei suoi panni, è un giocatore giovane, è una testa caldina, perché insomma a Firenze pare sia conosciuto alla Balotelli, no? Anche in locali notturni e tutto il resto, e quant'è. Poi Firenze è una città di un pettegolo mai visto, quindi queste cose vengono probabilmente anche ingigantite, ma in ogni caso la Fiorentina sta perdendo in casa 0-2 niente meno che con il Novara, e al 32esimo del primo tempo un giocatore che già non è follemente amato dalla tifoseria viene sostituito, significa il colpevole è lui, eh? Certo. Condivido tutto. Poi un'altra cosa che volevo dire, si parla tanto del nuovo allenatore del Milan, a me non dispiacerebbe per esempio un certo Donadoni, che sta facendo cose bellissime con il Parma, e volevo sapere un po' lei cosa ne pensa, oltre alla brutta figura che abbiamo fatto non soltanto in Italia ma in tutto il mondo per quello che è successo appunto a Firenze. Grazie mille, grazie a lei. Donadoni ha fatto una signora stagione, non è la prima volta che lo fa, però credo che, non lo so, ci deve essere qualcosa che non che gli impedisce di non che gli impedisce, ci deve essere, che non è una congiura certamente, ma insomma il gradimento nei suoi confronti arriva sempre soltanto fino a un certo punto, e quando il gradimento invece c'è, come accadde per la scelta ACT, poi basta che se arrivi un segnale di fumo da parte di Lippi, che comincia magari a farsi largo in maniera sotterranea, gli si scavano sotto le buche, e poi al primo pareggio contro la Spagna, che poi avrebbe vinto quell'europeo e il successivo mondiale, Donadoni per la nazionale non va più bene. Marco, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, a tutti quanti. Ho premesso che comunque il dogma dell'infallibilità ce l'ha uno solo al mondo, vesto di bianco e abita in Vaticano. Cioè, io credo che bisogna cominciare a spiegare a sti calciatori, a sti allenatori, a sti presidenti, che non siamo al campetto dell'oratorio, dove le mamme sono tutte di dubbia moralità e comunque il pallone è mio, il rigore lo tiro io. Io credo che ormai i giocatori abbiano troppa libertà. Cioè, guardiamo il Palermo, il rigore. Tutti assediano l'arbitro. Cioè, io capisco che gli arbitri a questo punto possono commettere degli errori, ma credo che abbiano una pressione addosso, perché qui ci si preoccupa più che arbitrare o più che il comportamento, i voti in pagella e le critiche del giorno dopo. Cioè, io credo che ormai il calcio sia esasperato in una maniera Io ho visto Southampton, cioè risale in serie l'invasione pacifica alla fine. Qui da noi, ragazzi, cioè, sono con le mazze, i macete sugli spalti, pronti, i giocatori a paura dei tifosi. E non da oggi, e non da oggi, Marco, e purtroppo non scopriamo nulla di nuovo. Scopriamo però sempre qualcosa di peggio e di ciclico, e di ciclicamente peggiore, che si rinnova in continuazione. Perché? Ma io... Per questi ultimi fatti ho una spiegazione, che magari non sarà il 100% della spiegazione, ma che un buon contributo lo dà. Giocare ogni 3 giorni, sono assolutamente certo che giocare ogni 3 giorni in un finale di stagione significa non riuscire a smaltire, a compensare gli stress e le stanchezze nervose accumulate. E questo vale sia per questo, a differenza di qui non c'è trattamento di Lega o non di Lega, qui riguarda i grandi e i piccoli. Io penso per esempio che per la Juventus sarà più complicato smaltire il suicidio di Buffon di ieri sera, il tentativo di suicidio di Buffon di ieri sera, tentativo peraltro al momento riuscito, certo non ancora completato, perché ci sono solo 4 giorni per smaltirlo, e oggi sono già solo 3 e poche ore. Una settimana è un'altra cosa. In una settimana la mente la liberi più facilmente. Poi, se vogliamo ricominciare con quanto sono pagati e quindi è giusto che giochino nei 3 giorni, magari anche 2 volte al giorno, allora vabbè, questo è un altro discorso. Se invece vogliamo ragionare sul livello di tensione e di stress che il calcio moderno porta con sé, questa valutazione la dobbiamo fare, perché in ogni caso è un dato di fatto, tante pazzie, ma pazzie autentiche come quella di sera di Dario Rossi, ma quella degli ultra genoani, quella dei laziali domenica scorsa, eccetera, non c'erano mai state in giornate consecutive di campionato. Che queste giornate siano ogni 3 giorni, probabilmente un'incidenza ce l'ha. Leggo che Mihajlovic disse di Ljajic: è pigro, mangia troppa cioccolata e sta sempre attaccata a quel diavolo di PlayStation. Questa era la diagnosi di Mihajlovic, quella di Dario Rossi magari la peggiore. Ripeto, Ljajic si è comportato in un modo pessimo, non c'è nessun dubbio, ma da lì a volargli al collo un uomo di 52 anni in favore di telecamera è assolutamente inaudito. Alberto Bergamo, buongiorno. No, Brescia. Ah, Brescia, chiedo scusa, c'è un errore sul display, dica. Niente, io volevo intervenire sull'argomento Buffon. Innanzitutto reputando una persona, secondo me, disonesta per varie dichiarazioni fatte in passato e anche recentemente riguardo alla famosa vicenda, che non sto qui a dire quella dentro o fuori la palla. Io spero di sbagliarmi, ma volevo un suo parere. Io sento puzza di bruciato. Secondo me, in questo periodo, con il marcio che c'è nel calcio, a vedere una scena così, un portiere con 20 anni di carriera alle spalle, che mi fa un errore così in una partita così decisiva, mi lascia un po' di stucco, diciamo. E quindi Buffon, secondo lei, avendo a questo punto cosa? Venduto la partita e scommesso sul pari del Lecce? Non lo so, no. Perché con i fatti che stanno accadendo ultimamente, secondo me, per aspettarsi di tutto. Guarda, dopo non vorrei dire delle stupidate. Beh, insomma, diciamo che è a buon punto. Ecco, diciamo che nel dubbio si è portato discretamente avanti. Ma io sto provando a seguire il suo ragionamento, e cioè... era talmente disperato Buffon a 5 minuti dalla fine che questi non tiravano in porta, che no, che cosa fa? Gli tocca combinare questa. L'alternativa qual era? Aspettare che il tempo passasse, che arrivasse uno del Lecce, buttarsi fuori area e pigliare la palla con la mano? No, perché non gli dà rigore. Ha colto l'attimo fuggente, quindi allora mi correggo rispetto alla scatola nera di prima: non è più lo stress, non è più l'attimo che non ti aspetti anche da parte di un grande campione, ma è una scelta premeditata che certamente è figlia di una scommessa. Io Alberto la censuro fino a un certo punto, nel senso che ne abbiamo lette, sentite. E altrettante, temo di più, ne leggeremo e ne sentiremo nel prossimo periodo. Però se noi pensiamo che si possa vendere una partita a scudetto quando oltretutto sei il portiere della nazionale e non solo della Juventus, io dico che se vogliamo indulgere alla tentazione di queste dietrologie, cambiamo sport, cioè investiamo il tempo libero in maniera migliore, dico io, nel mio piccolo mondo infelice. Giacomo Bari, buongiorno. Buongiorno Bertone, complimenti per la trasmissione. Mm-hmm. Io mi riallaccio un po' alla telefonata dell'amico precedente. È un po' strano che Buffon abbia fatto una papera del genere, ma comunque non era nella, cioè, ha tentato nel primo tempo, nel secondo tempo c'è stato anche un rinvio sbagliato su Chiellini. Diciamo che il fatto è andato così, ma comunque sia mi sembra un po' strano che un portiere della nazionale della sua esperienza possa in una partita così delicata e così importante aver compiuto una papera del genere, cioè mi è sembrato un po' strano, ecco, diciamo così, un po' strano. Non vorrei fare dei cattivi pensieri, visto che ha detto che l'Italia è il paese, come ha detto prima, dei malpensanti, però è una situazione un po' strana, come anche strano la non presenza di Giaccherini in campo, che io stimo come giocatore, un bravissimo giocatore. Ma quindi come Conte non l'abbia potuto schierare in campo. Ma lei sta dicendo quindi che nella torta c'era anche Conte, oppure c'era anche Conte nella torta, cioè anche Conte era d'accordo per i pari guardi, sinceramente Conte è un leccese, quindi faccia un po' lei, non lo so, io non voglio fare non voglio essere uno che pensa male. No. Io ho giocato X sulla schedina, glielo dico subito, perché non lo sentivo questo pareggio. Questo. Non lo sentivo. Allora, che se lo sentisse lei è un discorso, che l'abbiano propiziato Buffon e addirittura Conte con le sue scelte, lei capisce che forse c'è un piccolo salto per arrivare, no? Non, guardi, non abbiamo, lo dico anche è un avviso ai naviganti, lo dico anche ad altri ascoltatori che eventualmente volessero esibirsi su questo argomento e con riflessioni di questo genere, non abbiamo in programma un casting per umoristi veri o presunti nel prossimo periodo, quindi magari astenersi autocandidature, insomma, se è possibile da qui alle 15. Beh, insomma, diciamo che il gradimento degli ascoltatori per gli ultimi due interventi non è altissimo. Roberto, un messaggio firmato Roberto, mi sembra faccia un po' una sintesi. Ho scommesso con un collega che l'idiota con il sospetto su Buffon avrebbe chiamato dentro le 14:15, ho perso per 5 minuti la scommessa, ma quanti danni ha fatto la 180 di Basaglia, infierisce Paolo, eccetera, eccetera, di questo segnale. Dunque, il giudice sportivo, nel frattempo, dopo aver esaminato la partita di Firenze, è arrivato alle altre, e certo che il Lecce giocherà contro la Fiorentina, questa ultima partita a salvezza, insomma, ultima, no, perché è la penultima, insomma, quest'ultimo tentativo senza Quadrado, Muriel e Carrozzieri, mentre altri tre bolognesi sono stati squalificati, Cone, Portanova e Ramirez tra l'altro, e quindi questo credo che non sarà una cattiva notizia per il Napoli, mi sembra che sia Bologna-Napoli la prossima partita. A proposito, se riusciamo a tornare un pochino dalle parti del pallone, mi pare che ormai sia tra Napoli e Udinese la lotta per il terzo posto, e che sia abbastanza nettamente favorito il Napoli vedendo il calendario. Cosa dire? Ecco, questo Mauro Ballocchi è molto spiritoso in questa mail appena arrivata, perché avevo parlato di scatola nera per cercare di capire che cosa è passato ieri sera ad un certo punto nella zucca di Delio Rossi, ma anche di Buffon, per ragioni completamente diverse. E Mauro Ballocchi dice: non potremmo esaminare anche lo scatolone nero di Lucio, che mi sembra carina, perché se Buffon ovviamente ha compiuto un errore ancora più incredibile, quello di un difensore brasiliano che quest'anno ne ha già fatte peggio di Carlo in Francia, e tra l'altro è costato all'Inter l'eliminazione al Marsiglia, così giusto per dirne una delle prodezze finora, che questo debba uscire palla al piede testata dall'area in favore di fotografi e di telecamere per farsela portare via niente meno che da Giovinco e buttare all'aria una squadra che in quel momento sta vincendo e sta, se non controllando totalmente, ma insomma discretamente governando la partita, non è male nemmeno quella. Marco Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Ascolti, non voglio essere bollato da comico come i due radioascoltatori precedenti, ma sono sulla stessa linea d'onda, tutto qua. Perfetto. Buona quindi giornata. Grazie a lei, è un gesto di solidarietà apprezzabile nei confronti dei suoi predecessori. Gabriele Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Mi permetta, prima di fare la domanda e fare una considerazione, di esprimerle insomma grande simpatia. Io la seguo proprio perché da bolognese, qui abbiamo il Guerriero Sportivo, la sua trasmissione mi ricorda molto quel giornale, molto sobrio e molto piacevole. E niente, la considerazione, cioè sì, la domanda è questa, ma ciò che ha fatto Delio Rossi è più grave di quello che ha fatto Marchetti? Nel senso, 3 mesi a 1, considerando che secondo me sono gravissimi entrambi, ecco, intendiamoci, ma è più grave 3 mesi a 1 e 4 giornate quell'altro, forse perché deve andare in nazionale agli europei? No, perché è molto più grave. Lei mi ha fatto la domanda, io le rispondo, era il mio punto di vista, perché è 3 volte più grave, 3 mesi contro 1 praticamente, contro 4 settimane, perché è almeno 3 volte più grave, perché non stiamo parlando di un giocatore che è in campo, che si vede beffato, che sbaglia gravemente, intendiamoci, perché mette le mani addosso all'arbitro, non in senso di aggressione, ma nel senso di bullaggine, lieve bullaggine, lieve peraltro. È un portiere che ha appena subito un gol, beffardo indubbiamente, ha sentito quel fischio, l'hanno sentito tutti. Si comporta molto male, ma insomma, è un calciatore in quel momento, ha diritto a un livello di stress superiore. Questa è un'aggressione in piena regola, cioè stamattina il questore di Firenze ha esaminato la cosa perché stava pensando al Daspo, e poi sarebbe stato un eccesso, non c'è nessun dubbio, anzi, meno male che non è successo e che non siamo arrivati a una casistica del genere, a un provvedimento del genere, però insomma, giusto per dire che la gravità c'è stata e come, e quindi credo proprio che la proporzione sia stata rispettata, poi si può giudicare in un modo o nell'altro. Io credo che, parlavamo ieri proprio per purissima combinazione di cartellino viola, cioè di questa iniziativa che la Fiorentina ha preso da quest'anno, che è quella di premiare i gesti di fair play. Io stavolta, certo non lo faranno per ragioni di buon gusto, ma devo dire che la Fiorentina si è comportata secondo me nel modo migliore, e credo che il cartellino viola se lo potrebbe per questo mese autoattribuire. La perfezione assoluta sarebbe stata secondo me licenziare Rossi nell'intervallo, perché c'erano 10 minuti di tempo per cacciarlo. Credo che sarebbe stato il massimo proprio della vita, nel senso di questo signore è indegno in questo momento, poi magari lo riassumo un altro anno, ma in questo momento è indegno di sedere sulla panchina della società che io sto gestendo. Se adesso sarà altrettanto severa, ma non ne dubito, la sanzione nei confronti di Ljajic, io credo che la Fiorentina si sia davvero comportata nel migliore dei modi. Anche perché non faccio fatica a fare dei paralleli, per carità, non è un processo alle intenzioni, ma è un processo alle prassi, no? Che vediamo comunemente applicate, e cioè lascia arrivare la fine della partita, l'allenatore è rimessa alla stampa, arriva con l'aria compunta, magari si fa scappare la lacrimuccia, certamente chiede scusa, arriva il giocatore, scena cosa, e avanti fino alla prossima. Invece, se quando si sbaglia così gravemente si viene puniti all'istante così gravemente, io credo che possa essere un segnale più positivo, questo credo, poi probabilmente illudendomi come sempre. Fabio Brescia, buongiorno. Sì Gigi, buongiorno. Dica. Allora, io pensavo che la mia fosse una telefonata monotona, nel senso che tanti avessero detto la stessa cosa che sto per dire. Mi sono perso buona parte della prima mezza puntata, ma le ultime 3 telefonate che ho sentito mi dicono che forse questo va detto assolutamente. Allora, la teoria del sospetto o qualcosa del genere, lasciamo perdere tutto. Io da juventino perdono a Super Gigione Buffon, a cui voglio un bene dell'anima, un errore, perché anche lui può farlo, e ricordo a tutti gli juventini e quelli che sospettano che ci ha tirato fuori le castagne dal fuoco 1 milione di volte da quando la Juve, comportandosi da uomo quando siamo andati in Serie B. Grazie a Gigi. No, grazie a lei da parte di Buffon, ma anche da parte del buon senso, della ragione, da parte di chi... comunque diciamo come minimo non si vuole arrendere alla cultura del sospetto ad ogni costo, no? Ma poi anche di chi appunto ha un minimo di memoria, ha un minimo di rispetto per i valori. Poi io credo che non... le cose che ho sentito prima, ma che ho letto anche scritte, perché ne sono arrivate anche per iscritto, credo che siano, non dico giustificabili, ma comprensibili alla luce del fatto che abbiamo inquinato tutto. E credo che il rischio che il calcio sta correndo sia quello che ormai la politica non sta più correndo, nel senso che ormai c'è dentro, no? Nel senso che non si crede più a nessun nuovo politico, perché è talmente inquinata la politica che diventa difficile credere anche alle non tante persone per bene che la popolano, o comunque a quelli che si sforzano in ogni caso di continuare a comportarsi correttamente. Il calcio sta correndo lo stesso rischio, perché è talmente pieno di pecore nere e di soggetti marci, no? Che si fa fatica ad espellere e che troppo spesso e troppo facilmente vengono difesi, magari anche ad oltranza, che si rischia per l'appunto di arrivare nella stessa situazione, per cui tutto è marcio, tutto è malato e Buffon, e persino uno come Buffon, la cui carriera lei in sintesi ha ricordato, carriera juventina in questo caso, non può permettersi un errore, perché quell'errore non solo è sospetto, ma è un indizio certo, anzi è una prova di colpevolezza. A questo siamo ridotti, ma una parte di colpa è loro, loro nel senso di tutte le mele bacate che in quel cesto, nel cesto del pallone, ci sono. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno, io ho seguito la partita Juventus-Lecce, no? E ha fatto una bella partita la Juventus, ma all'ultimo a tutto, alla fine, Conte, l'allenatore della Juventus, non aspettava di un giocatore come quando vinceva le abbracci, se n'è andato voltando le spalle a tutti e se n'è andato di tutto. Per me non è affatto un segno sportivo. D'accordo con lei, Francesco. Dunque, non so, cito almeno, se non altro, un po' di ascoltatori che hanno scritto, e sono tutte osservazioni intelligenti e interessanti quelle che hanno fatto. Andrea Dolci, Pierluigi Gelli. Beh, questa di Piergiorgio Ghidini ve la leggo, perché dice: so che la mia mail non parla il politicamente corretto, ma contrariamente a chi afferma che Delio Rossi ha sbagliato, io dico che ha fatto benissimo. È ora di smettere di viziare questi ragazzini che non sanno nemmeno godersi la fortuna che hanno. Le domanderei volentieri, Pier Giorgio Ghidini, in che senso Rossi potrebbe aver viziato o vizierebbe se non avesse reagito menandolo, eccetera eccetera. E poi dice: rimango sorpreso anche dalla reazione dei mass media, tutti a dire che non bisogna cadere nelle provocazioni, ma mi piacerebbe vedere questi ben pensanti come reagirebbero se e quando un ragazzino loro subalterno, apprendista, giovane giornalista di redazione, giovane laureato che sta facendo pratica andando eccetera, dovesse mancare loro di rispetto in modo così eclatante e plateale come ha fatto ieri sera il giovane Ljajic. Purtroppo questa società ha perso il senso del rispetto e dell'educazione. 100.000 Delio Rossi, firmato Pier Giorgio Ghidini. Quindi, per rifarmi la bocca io, ma anche e soprattutto per rifarla voi, vi leggerei invece il grande Oliviero Tacchella, professore di liceo in quel di Pavia, che scrive quello di sta arrivando il traffico, ve lo leggo dopo, perché così questa proprio per rifarsi la bocca, dicevo, rispetto a quello di prima, questa va delibata. Allora andiamo con ordine, perché ci sono anche dei messaggi molto divertenti a parte questa lettura. L'ordine significa, ripartiamo da Oliviero Tacchella. Quello di Delio Rossi è stato il culmine dell'isteria collettiva che governa ormai tutto il nostro football. Il tappo alla fine è saltato, espulso da gas benefici anziché da salutare i bollicine. È un mondo ormai dove più nessuno, nelle parole e adesso anche nei fatti, riesce più a governare non il mondo cui appartiene, ma nemmeno se stesso. Si naviga a vista e nemmeno sotto costa su una zattera di disperati alla deriva, dalla quale per salvarsi ciascuno tenta di gettare a mare l'altro. Mi sfugge la direzione dell'approdo, anzi mi sfugge l'idea stessa di un porto sicuro, convinto come sono che il naufragio in alto mare sia solo questione di poco tempo. L'immagine sarà anche forte, ma rappresenta bene lo stato dell'arte. E questa lettera deliziosa è impreziosita da una strepitosa citazione di Montale, La casa dei doganieri, e la citazione è la seguente: la bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Passerei a Nicola Filippone e al suo Amarcord di un 3 maggio. Sembra ieri. 3 maggio 1967. L'Inter accede alla finale di Coppa dei Campioni per la terza volta nella gestione Herrera. Ma piegare la resistenza del CSKA di Sofia è stato molto più difficile del previsto. All'andata a Milano era finita 1-1 con gol di Facchetti, di nuovo in rete anche al ritorno a Sofia, dove si era verificato lo stesso risultato. Nello spareggio di Bologna finisce 1-0 per l'Inter, con gol partita di Cappellini al 12°. Nella finale di Lisbona, il 25 maggio, i nerazzurri soccomberanno al Celtic, imboccando così la strada del declino dopo un grande ciclo. Quale squalifica, domanda Antonio Bartolozzi, venne data a quel signore del Catania che qualche anno fa scambiò il deretano di un collega per il pallone? È vero, è vero. 3 anni fa, un mese di squalifica beccò. Era Baldini, allenatore del Catania, che alla prima giornata di campionato, vede, questo smentisce quello che io stesso ho detto prima, dicevo che giocando ogni 3 giorni in maniera ravvicinata lo stress sale. Non vale per Baldini, che tirò quella pedata nel sedere in mondovisione a Di Carlo, mi pare fosse il suo avversario, sul campo di Parma, tra l'altro da ospite. E, bella scena, bel gesto, bel precedente e buona memoria la sua. Vorrei dirle che lei come persona, scrive Franco, sarebbe molto più utile in politica che nello sport. Franco, lei mi vuole male, o forse sta indovinando un futuro magari scenario mio che dovrà dal prossimo anno cambiare gioco forza. Basta incensare la presunta moralità di Buffon, ricordiamocelo, durante e dopo l'ultimo Milan-Juve. Allora, lei che ha scritto questo messaggio che non l'ha firmato, io non le do del demente perché non diciamo che lei è uno sciocchino, perché non riesce a fare questo 2 più 2. Se Buffon seguendo lei il filone dei suoi predecessori insigni di prima, se Buffon ieri sera ha fatto un atto autolesionistico per interesse, e cioè ha venduto, ha fatto chissà cosa eccetera, la sera di Milan-Juve fece il contrario, semmai, cioè fu accusato di aver fatto una scorrettezza anziché una parata, anzi un miracolo perfettamente legittimi, toccava all'arbitro valutare, non a lui, per salvare ad ogni costo la Juventus. Quindi dov'è la coerenza tra queste due cose? 6 partite di squalifica e 15.000 euro fu la punizione di Baldini per quel, e la motivazione fu atteggiamento diseducativo. Beh, alla faccia del bicarbonato, una pedata nel sedere in diretta a campo libero in favore di telecamera, discretamente diseducativo. Massimo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo capire una cosa che mi sfugge. La squalifica di 3 mesi a Rossi. Ma fra tre mesi scadono il 3 agosto, praticamente è come se avesse 2 giornate. In pratica che cosa significa 3 mesi? È un po' come dire, una cosa per creare un po' di sensazionalismo o un senso pratico? No, anche un senso pratico, evidentemente, perché in questi 3 mesi credo che non possa assumere incarichi. Beh, certo, li può concludere diciamo al buio e poi ratificarli quando verranno, però se una squadra lo linguaggia adesso, lui non può fare la preparazione, per esempio, non credo, almeno bisogna sentire la Lega, perché le ho anticipato prima che i veri luminari del calcio di oggi stanno in Lega a Milano, quindi forse bisogna sentire loro dal punto di vista strettamente regolamentare in un caso di questo genere. Matteo, Modena, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Dica. Le volevo parlare di Delio Rossi, dicendo sì, hanno sbagliato, effettivamente la Fiorentina ha fatto bene a punire, ma è un caso, ce ne sono stati altri. Io ricordo quello di Ferguson con Beckham, che gli tirò lo scarpino, so che erano... Momento, ecco, no, distinguiamo però. Pure di camera, ma ce ne sono tantissimi. Ehi, me ne dica altri 3 in favore di telecamere. Cioè, no, quello che ha detto non... quello che ha detto non esiste. Ce ne sono tantissimi di questi episodi. Ma certo, però detto così sembra che gli spogliatoi siano luoghi di mattanza, no? Gli spogliatoi sono luoghi di chiarimenti. Secondo me no, però può succedere. Però poi dico anche una cosa controcorrente, che Scommessopoli, tutte quelle cose lì, diciamo, io da ignorante, hanno aiutato il campionato, perché ieri ho visto partite tirate tutte, nessuno cede, diciamo, come succedeva anni fa. Certo, questo un Novara combattivo, un Siena combattivo, e quindi questa cosa, tra virgolette, così uso un eufemismo, ha fatto bene, diciamo, via. Sì, diciamo che ha fatto bene, magari stiamo un po' esagerando, ma diciamo che anche dal peggio si può prendere sempre qualcosina di buono. Altre mail, non riesco a leggerle tutte. Francesco Panelli, Luigi Anglani, Andrea Gratton, Alessandro Di Pretoro, Massimo De Battistis, ne cito almeno qualcuno perché erano tutte meritevoli di, non so, Enrico Rovira, forse questa da Modena, un breve passaggio finale. Le avevo appena chiesto se i miei nipoti avrebbero fatto in tempo a vedere il giorno in cui andare allo stadio, anche per seguire una partita importante, senza correre rischi di incolumità fisica. Probabilmente no, non diventeremo mai un paese normale. Ci impegniamo ogni giorno a colmare lo spread economico, perché sappiamo che quello che invece misura civiltà, educazione e senso della misura è ormai irrimediabilmente schizzato alle stelle. Matteo Modena, buongiorno. No, Matteo Modena, l'abbiamo, chiedo scusa, ne abbiamo ancora due, vediamo se riusciamo a essere veloci. Claudio Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione. Volevo tornare sul caso Buffon. Sì. E premetto, sono tifoso milanista, ma vorrei ricordare ai signori juventini che ho sentito da buoni comici criticare il loro portiere, che forse in qualche circostanza anche in questo campionato Buffon ha salvato il risultato, vedi Catania, certo, parate su Almirón Berghessio, certo. E vorrei concludere in modo comico anch'io, ma allora l'intervento di Benassi ieri sul gol di Marchisio non era forse da disputabile? Benassi è svenuto, non c'è nessun dubbio su quel gol, è letteralmente svenuto, però d'altra parte dopo ha fatto grandi parate, ha ragione lei, cioè, non c'è il calciatore che non sbaglia, nemmeno il grande campione. Poi se l'errore è plateale e autolesionista come quello di Buffon di ieri, certo che autorizza sbalordimento, ma dallo sbalordimento al sospetto ci vuole tutta l'incultura sportiva di alcuni dei nostri co-ascoltatori. Giobbe da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dell'opportunità. Sì. Ho un intervento piccolo. Secondo me bisogna, diciamo, stare dalla parte dell'allenatore e porre questo problema, perché praticamente mancano certe cose dell'educazione del giocatore. Secondo me da piccoli giocatori bisogna educarli che vanno rispettate le decisioni dell'allenatore. Non c'è dubbio. Cosa ne pensa? Penso che sia assolutamente così, Giobbe, e penso anche che, dato che ci sono i soggetti più refrattari, cioè ci sono quelli che l'educazione la imparano più velocemente, ci sono quelli che invece ci mettono un po' di più, credo che riempire i cazzotti in diretta televisiva su una panchina non sia esattamente il metodo che Montessori avrebbe indicato, no? Proprio per questi casi, come dire, più recalcitranti. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti oggi, grazie a Nicola Rinaldi in regia, a Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è per domani. Allora.